piu de tirania fascista. De càrcele com fent la bastona. Donant un menú mat al comunista. La convenzione. La convenzione. 10 e 26 minuti primi all'ascolto di Radio Onda Rossa e all'ascolto come ogni lunedì di Radio Euskadi, la musica, la politica, la cultura, la storia dal Paese Basco e non solo. La polizia se la se passe, risponderemo dalle barricate, piombo per piombo, e si caremo l'un. Un saluto anche a chi trilla la sigla della banda Baciocchi. Un saluto anche a chi ci sta ascoltando reduce da una nottata di lavoro, perché per molte e molti purtroppo il primo maggio è una giornata di lavoro come le altre. E allora noi andiamo a iniziare questa nuova puntata dopo una settimana di stop. Lo scorso lunedì non siamo andati in onda visto che era il 25 aprile. Andiamo a cominciare con una trasmissione che quest'oggi sarà divisa sostanzialmente in due tronconi. La prima parte della trasmissione sarà infatti dedicata alla cronaca dal Paese Basco, alla notizia principale. È l'ennesimo impedimento da parte del Tribunale Supremo alla presentazione di una lista della sinistra indipendentista alle prossime elezioni del Paese Basco, ma la notizia in sé non ha elementi di novità, ma la situazione in realtà ha elementi di novità, perché la lista di cui stiamo parlando è una lista elettorale che va oltre l'ambito della sinistra indipendentista, e questo sta in realtà creando tanti problemi sia all'interno del quadro politico basco sia all'interno del quadro politico spagnolo più in generale. Vedremo di che cosa si tratta. Poi parleremo di repressione, ancora le due cose vanno di pari passo, la repressione politica e la repressione fisica del dissenso, con un comunicato dell'associazione di familiari e amici dei prigionieri e delle prigioniere politiche e Cerat. Torneremo ai fascicoli WikiLeaks, di cui si parla molto poco in questi ultimi tempi, ma che stanno continuando a uscire. Ce ne sono alcuni molto interessanti, sempre relativi ovviamente ai rapporti fra governo spagnolo e governo statunitense, per quanto riguarda gli anni dal 2005 al 2007. La possibilità di portare avanti un processo di transizione democratica nel Paese Basco, che poi purtroppo non ebbe luogo. Questo per quanto riguarda la prima parte della trasmissione. Nella seconda parte, quindi a partire dalle ore 11 circa, avremo ai nostri microfoni Guido Caldiron, giornalista, saggista, esperto di tematiche relative al neofascismo italiano e non solo. Lo avremo ai nostri microfoni per parlare ancora una volta del caso Calore, l'ex militante neofascista, poi pentito, ucciso nell'autunno scorso alle porte di Roma, qui nei pressi di Guidonia. Calore, fra l'altro, aveva rivelato una serie di cose in merito alla presenza dei neofascisti italiani nello Stato spagnolo, fra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80. E, Guido Caldiron ha partecipato a un documentario che è andato in onda sulla televisione basca proprio poche settimane fa, che si occupava della vicenda di Calore, e quindi ci faremo una chiacchierata con lui per parlare di questi temi. Questo è quanto ci offre Radio Usca di oggi, un breve intermezzo musicale e poi partiremo con le notizie. E allora andiamo a cominciare la puntata odierna di Radio Euskadi parlando ancora una volta delle elezioni che stanno per arrivare nel Paese Basco, elezioni molto importanti e elezioni che fanno crescere il livello di nervosismo già piuttosto alto, a dire il vero, all'interno in particolare del governo spagnolo, ma più in generale di tutto il quadro politico sia spagnolo che basco. Qualche settimana fa, vi ricorderete, abbiamo dato grande spazio alla notizia della creazione di un di una formazione elettorale basca, si chiamava Sortu, e questa aggregazione elettorale, che era un'aggregazione elettorale della sinistra indipendentista basca, era stata creata per riuscire a presentarsi alle elezioni e soprattutto per cercare di di riuscire a sfuggire alle maglie della famigerata legge sui partiti, quella legge sui partiti politici che sostanzialmente dà la possibilità al governo di decidere chi si può presentare alle elezioni e chi no. Sortu aveva tutte le carte in regola per presentarsi, dichiarava il proprio assoluto rifiuto e rigetto della violenza politica, i candidati e le candidate erano tutti a prova di controllo, insomma tutte le indicazioni che la famigerata legge sui partiti politici dà erano in qualche modo messe in pratica da questa formazione. Ciò nonostante, il Tribunale Supremo spagnolo, che è quello che in ultima analisi decide se una formazione politica può o meno presentarsi alle elezioni, aveva comunque deciso che Sortu non andava bene. Una decisione presa a maggioranza, non all'unanimità, una decisione che è stata criticata anche da parecchi politici baschi legati al Partito Socialista, che si rendevano e si rendono bene conto che queste che questi impedimenti, che questi divieti poi non fanno altro che accrescere comunque il favore popolare nei confronti di tali formazioni. Per Sortu non c'è stato niente da fare. Non ci si è persi d'animo però nel Paese Basco, e dopo Sortu è stata creata in pochissimo tempo un'altra formazione elettorale, sempre con lo scopo di candidarsi alle elezioni che si terranno fra poche settimane. Questa nuova formazione elettorale si chiamava Bildu ed aveva una particolarità: non era una formazione unicamente afferente alla sinistra indipendentista basca, ma si presenta come l'aggregazione di tutta una serie di formazioni politiche, alcune delle quali sono presenti da anni nel panorama politico basco. Una in particolare molto importante si chiama Euskal Kartasuna. È una formazione di carattere sostanzialmente socialdemocratico che vanta ormai una vita più che ventennale, ha partecipato a diverse esperienze di governo, fra le altre cose sia a livello generale basco sia in molte amministrazioni locali, quindi non è assolutamente, come dire, imputabile di simpatie col terrorismo e con la lotta armata. Ciò nonostante, il Tribunale Supremo Spagnolo anche in questo caso ha deciso, con una maggioranza abbastanza ristretta, 9 voti a favore e 6 contro, l'illegalizzazione anche di questa formazione, anche di questa nuova formazione elettorale. Quindi tutto come prima, quindi si andrà a votare con il vecchio, con i partiti che si sono presentati anche l'ultima volta, e tutti dovrebbero essere contenti così. Ma la situazione non è così semplice, si registra un grande nervosismo, curiosamente non tanto nelle file di chi non si potrà presentare alle prossime elezioni, ma nelle file di chi invece si potrà presentare. Questo perché? Perché tutti i sondaggi, ma insomma al di là dei sondaggi, quella che è proprio la percezione evidente, rendono noto come la stragrande maggioranza ormai della popolazione basca ritenga che questi impedimenti siano quanto di più antidemocratico possa esserci, e di questo si rendono conto anche le principali formazioni politiche del Paese Basco, le quali, ad eccezione del Partito Popolare, sembrano tutte essere abbastanza critiche nei confronti di questa decisione. Sono critici i principali leader socialisti del Paese Basco, che hanno detto e continuano a dire ormai in maniera sempre più esplicita che andando avanti così sarà difficile ritornare a governare il Paese Basco anche per il prossimo quadriennio. Il Paese Basco, lo ricordiamo, è governato da un governo sostanzialmente bipartitico, Partito Socialista, Partito Popolare, che si è potuto sviluppare soltanto grazie all'impedimento per le formazioni della sinistra indipendentista di presentarsi alle urne, ma ormai pare evidente a tutti che difficilmente, anche continuando così le cose, si potrà continuare questa esperienza. E ad essere critici con questa decisione del Tribunale Supremo sono anche le formazioni più moderate del quadro politico basco, in particolar modo il Partito Nazionalista Basco, che si candida ovviamente a ritornare al governo. Il Partito Nazionalista Basco, in dichiarazioni proprio delle ultime ore, degli ultimi minuti, ha detto alcune cose molto importanti. Ha detto di essere intanto contrarissimo alla illegalizzazione di queste formazioni politiche. ma soprattutto ha dichiarato e ha mandato un messaggio evidente a chi ha il potere oggi a Madrid che questo tipo di vera e propria persecuzione giudiziaria, perché di altro non si tratta, sta portando acqua al mulino della sinistra indipendentista e di tutti i movimenti che sono legati alla sinistra indipendentista. I principali esponenti del PNV ieri e oggi hanno detto sostanzialmente se si continua così si dà forza a questo tipo di movimento, a questo tipo di movimenti, a questo tipo di forze politiche, e non si potrà andare avanti così all'infinito. Insomma, in maniera molto fuori dai denti hanno detto: guardate che state preparando la vostra fine, almeno qui nel Paese Basco, e lo dicono preoccupati perché insomma, quella del Partito Nazionalista Basco è un'opzione moderata, democristiana, che ha sempre basato le sue fortune diciamo sulla mediazione fra diverse espressioni, diverse forze, diverse sensibilità politiche, e si rendono benissimo conto, appunto, da seri democristiani quali sono, il PNV è partito fondatore dell'Internazionale Democristiana, che questa via sarà difficilmente perseguibile anche in futuro. Questo almeno per quanto riguarda il futuro, per quanto riguarda il futuro, diciamo, a medio e lungo termine. Per quanto riguarda il futuro immediato, ci saranno delle elezioni a cui gran parte della popolazione basca non potrà presentarsi, perché non avrà un'opzione politica di riferimento da votare, ma ci sono anche le espressioni della piazza, le espressioni delle lotte, le espressioni dei movimenti. Ieri era la giornata del primo maggio e a Bilbao c'è stata una manifestazione come non si vedeva da tempo in questa data. 15.000 persone che hanno sfilato nelle strade di Bilbao per la prima volta dal 2004. Una manifestazione unitaria di tutte le principali forze sindacali, che hanno fatto poi nel corso dei comizi finali una serie di richieste molto specifiche per quanto riguarda i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, ma hanno anche preso posizione in alcuni casi, hanno dovuto prendere posizione in altri casi sulla repressione politica in atto nel Paese Basco. Si andrà a votare fra poco, le votazioni andranno come andranno, ma certo è che sul se non sul medio, sul lungo periodo, come dire, il vento sembrerebbe andare in una direzione abbastanza diversa da quella che vorrebbero Zapatero e Rubalcaba. a proposito di processi di pace che non cominciano o che non vogliono cominciare, come detto nel corso del riassunto delle notizie all'inizio della trasmissione, volevo andare a leggervi qualche nota apparsa qualche giorno fa sul quotidiano Basco Gara, ma sono note riprese dal quotidiano spagnolo El País, sulle sugli ultimi dispacci di WikiLeaks che sono stati resi noti nello Stato spagnolo. El País, lo ricordiamo, è uno dei vari quotidiani che a livello mondiale si occupano della diffusione di questi dispacci. Gli ultimi sono particolarmente interessanti perché, almeno dal nostro punto di vista, perché affrontano il tema del processo di negoziazione fra Stato spagnolo e ETA, che si provò a fare nel biennio 2005-2007. Eravamo ai tempi del primo governo Zapatero, era lo Zapatero Techiero, era il miracolo economico spagnolo, insomma un quadro decisamente diverso da quello attuale. E leggiamo come, secondo questi dispacci, il governo di Zapatero utilizzò l'argomento dell'opinione pubblica spagnola come freno per quanto riguarda quel processo di negoziazione che poi non ebbe modo di procedere fra il 2005 e il 2007, e in realtà continua a farlo anche adesso. Dice ancora WikiLeaks che il rifiuto di cancellare le politiche di legalizzazione dei partiti politici o le politiche carcerarie sono state giustificate direttamente o indirettamente dal fatto, dalla supposta incomprensione che l'opinione pubblica spagnola avrebbe avuto nei confronti di questi temi. Non c'è dubbio però che le conversazioni private fra Madrid e Washington, che appaiono negli ultimi dispacci di WikiLeaks, indicano in realtà che ci sarebbe stato spazio sufficiente per prendersi qualche rischio. Il 17 maggio del 2005 un alto rappresentante del governo socialista dell'epoca rivelò infatti all'ambasciata statunitense a Madrid che alcuni sondaggi mostravano come una grande maggioranza della cittadinanza spagnola, quindi non basca, di tutto lo Stato, sarebbe stata contenta di appoggiare il dialogo per mettere fine al conflitto basco. Questo almeno appare dagli ultimi dispacci di WikiLeaks sul Paese Basco che sono stati resi noti dal quotidiano El País. Stiamo parlando del maggio del 2005, in particolare il 18 maggio del 2005, un giorno dopo un incontro fra l'ambasciata statunitense e un alto rappresentante del governo spagnolo. Si stava per approvare una risoluzione della Camera dei Deputati portata avanti dal Partito Socialista che avrebbe dovuto aprire la porta al dialogo ufficiale con ETA in determinate condizioni, e che poi si sarebbe materializzata soltanto un anno dopo, anche se da quello che sappiamo adesso dialoghi segreti fra ETA e governo spagnolo c'erano stati già quell'anno. Stiamo parlando di altissimi rappresentanti del governo spagnolo, quindi non c'è possibilità di smentita da questo punto di vista. Le informazioni che il governo spagnolo dava all'ambasciata statunitense erano state prese, organizzate e dirette da un gabinetto formato da Zapatero, o Rubalcaba, attuale ministro degli interni e vicepresidente del Consiglio, José Blanco e De la Vega, insomma il non plus ultra della leadership del governo. Sempre nelle stesse comunicazioni agli statunitensi, il governo diceva che l'iniziativa portava in sé qualche rischio, però i sondaggi e le inchieste mostravano che comunque la, l'opinione pubblica spagnola si diceva disposta ad accettare il dialogo. E la cosa divertente è che la stessa ambasciata nordamericana sembrava essere d'accordo con queste posizioni e rispondeva sempre nello stesso periodo dicendo che le elezioni per il Parlamento Basco di quello stesso anno non facevano altro che fornire una conferma al fatto che il dialogo fosse possibile. L'ambasciata nordamericana diceva nelle ultime elezioni il Partito Socialista ha avuto una grossa crescita nel Paese Basco e questa grossa crescita è da imputare in gran parte, secondo gli statunitensi, proprio all'apertura al dialogo. E dicevano ancora gli americani che solitamente non sono mai stati particolarmente vicini al Paese Basco, lo dicevano evidentemente per come consiglio al governo dell'epoca. Nel Paese Basco siete riusciti a ottenere un grosso consenso elettorale, probabilmente potete utilizzare questo tipo di posizione anche per avere consensi più rafforzati su tutto l'ambito dello Stato spagnolo. Un'analisi che è peraltro coerente con tutti gli altri dispacci che sono stati resi noti nel corso dell'ultimo anno. Da questi dati poi viene fuori che l'amministrazione statunitense, o almeno l'ambasciata statunitense a Madrid, ma che ovviamente fa gli interessi e porta avanti le politiche di Washington, vedeva in quel periodo come un fatto positivo la possibilità che si risolvesse il conflitto nel Paese Basco, anche se non pare abbia mai preso posizione ufficiale nel portare avanti questo tipo di processo. Peraltro all'epoca c'era l'amministrazione Bush che era molto più vicina al Partito Popolare che al Partito Socialista. Ciò nonostante per ovviamente Realpolitik in quel momento bisognava fare i conti con l'amministrazione socialista e anche secondo l'ambasciata nordamericana la scelta di portare avanti il processo di pace nel Paese Basco era una scelta vincente, era una scelta vincente per il Partito Socialista e secondo gli Stati Uniti d'America sarebbe stata una scelta vincente anche per i loro alleati più fedeli, ovvero sia il Partito Popolare. La dola de sepa, la evidencia de las cosas, la falta de precisión, que nubla la cabeza, es el odio. E a questo punto è utile dare un'occhiata a quello che pensava l'ambasciata statunitense della posizione del Partito Popolare di fronte alla possibile soluzione della crisi. Ambasciata che in un dispaccio sempre del maggio del 2005 affronta la posizione del Partito Popolare nella, nel Parlamento spagnolo. Il Partito Popolare in quel momento dice chiaramente no a qualsiasi tipo di soluzione dialogata e secondo l'ambasciata di Washington questo è una, è un fatto politico, è una posizione politica Assolutamente drammatica. L'ambasciatore nordamericano chiama i suoi principali dicendo che questo tipo di posizione da parte del Partito Popolare potrebbe non portare nulla di buono al Partito Popolare e anzi potrebbe rafforzare la posizione del Partito Socialista. Secondo la diplomazia statunitense, il Partito Popolare ha tenuto negli anni che vanno dal 2005 al 2007 una posizione di no assoluto al dialogo e di scontro totale con il governo Zapatero. E il Partito Popolare, secondo la diplomazia statunitense, ha camminato sulla linea molto sottile che separa il legittimo disaccordo politico con il governo e l'utilizzazione del terrorismo per riuscire a guadagnare qualche punto percentuale. Ma non è detto, dicono ancora gli statunitensi, che questo possa effettivamente succedere. Allora, abbiamo visto un po' che cosa sta succedendo in questo momento nel Paese Basco e abbiamo visto anche quello che è successo nel biennio fra 2005 e 2007. In quel caso un processo di pace in qualche modo tentato anche dallo stesso governo spagnolo, ma poi quasi immediatamente è abortito a causa del timidezza del governo di fronte alle pressioni dell'opposizione, e abbiamo visto come gli stessi fedeli alleati nordamericani fossero, come dire, abbastanza confusi riguardo all'attitudine della classe politica spagnola, sia dei socialisti al governo sia del Partito Popolare all'opposizione. Certo, come dire, è facile da lontano avere una visione dei fatti un po' più chiara, un po' più fredda, un po' più razionale. Però quello che l'ambasciata nordamericana dice in questo periodo è: risolvere il conflitto nel Paese Basco porterà a chi effettivamente lo farà, almeno a chi comincerà quel processo, una rendita politica ed elettorale immediata che avrà una lunga durata. Ciò non sarà fatto però né dal Partito Socialista né dal Partito Popolare, almeno fino ad ora. Questa è la situazione. Solo sei anni fa, oggi abbiamo visto la situazione com'è, con una repressione politica e giudiziaria che continua ad andare avanti e che però più va avanti e più lascia timori nei confronti di quegli stessi che in qualche modo la perpetrano, la portano avanti, perché più c'è repressione, più in qualche modo si alza il fuoco sotto una pentola a pressione che sta già cominciando a fischiare in modo piuttosto pericoloso, e sono in molti, anche e soprattutto i politici moderati e conservatori, ma più intelligenti, che si rendono conto di come questa situazione difficilmente potrà andare avanti ancora a lungo. Sono le 11 in punto, noi a questo punto chiudiamo la parte dedicata all'attualità e andiamo ad aprire, anche qui dopo una brevissima pausa musicale, quella dedicata alla storia. Zirela dantzatzen zarritan zerbait ikusteko adubi faltaiera plot frekuento generalean zarri, zarri, zarri, zarri, zarri, zarri zarri, zarri, zarri, zarri, zarri, zarri zarri, zarri, zarri, zarri, zarri, zarri izbatu irratikoak antziren ditzen zuzean paella janko zutela eta pitita zarri bere muturretan saltzan zudela kontuatu mamea sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri ez dakizten pasatzen den azken handi ontan jende hasi dela dantzatzen zarritan zerbait ikusteko adubi falta direla kozre kuento generalean sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri viva tu sarri, sarri, sarri, sarri, viva soaz sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, Cristo marcha la vida. E allora 11:03, come annunciato siamo in collegamento telefonico con Guido Caldiron, giornalista, saggista, scrittore, insomma, voce abbastanza conosciuta anche da questi microfoni. Intanto ciao Guido, grazie per la tua presenza qui stamattina. Ciao a te, buongiorno. Allora, noi con te volevamo tornare su un tema che in realtà abbiamo già affrontato più volte in passato, ma quest'oggi lo volevamo fare, diciamo, dal punto di vista italiano più che da quello spagnolo. Il tema è quello relativo a Sergio Calore, di cui abbiamo parlato più volte nel corso di quest'anno, militante neofascista, poi pentito, poi ucciso in situazioni, insomma, piuttosto misteriose nell'autunno scorso alle porte di Roma, qui a Guidonia. Di Sergio Calore ci siamo Interessati lo scorso anno, quando presentammo un film di Ángel Amigo che si chiamava El año de todos los demonios, per diciamo la presenza sua, di Calore e di altri militanti neofascisti italiani nello Stato spagnolo fra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80, in qualità, sosteneva e sostiene anche l'amico direttore regista della della pellicola, in qualità sostanzialmente di mercenari al servizio del governo spagnolo dell'epoca. In particolare, per quanto riguarda la sparizione di un militante, un leader storico di ETA politico militar, Pertur, scomparso nel Paese Basco a un certo punto e di cui non si sono mai più avute notizie, uno dei rari casi di desaparición nel Paese Basco. E anche l'amico ha scritto e diretto questo film, El año de todos los demonios, nel 2007, e poi è tornato sulla vicenda con un documentario che è stato presentato sulla televisione basca poche settimane fa, proprio su Sergio Calore. Il titolo in spagnolo è Il caso Calore, assassinio di un testimone protetto, documentario in cui sei presente anche tu, sei stato intervistato anche tu. Allora, noi intanto speriamo di presentare questo documentario il prima possibile anche qua a Roma. Ti vorremmo chiedere di come dire, illustrare, seppur brevemente, la vicenda di Calore, partendo magari dal versante italiano. Ecco, noi abbiamo affrontato la vicenda dal versante spagnolo, a te chiederemo di vederla da questa parte della barricata. Sì, io non so, non vorrei stravolgere, diciamo, un'ipotesi di scaletta di trasmissione, dicendo soltanto una cosa iniziale, facendo riferimento al titolo che tu citavi di questo film dedicato alla morte, appunto alla scomparsa di questo dirigente di ETA, quella che in qualche modo chi ha seguito, in particolare appunto anche l'amico, questa storia e che da molto tempo indaga anche come amico personale di Pertur all'epoca dei fatti, si è fatto l'idea che in qualche modo la scomparsa di Sergio Calore potrebbe essere riconducibile a dei misteri che con la sua uscita di scena, con la sua morte violenta, si vorrebbero cancellare per sempre. Dico questo perché sulla morte di Calore nel nostro paese in realtà non si è detto molto, nel senso che è stata una morte violenta, probabilmente in seguito a una colluttazione, senza che vi sia stato ovviamente nel casolare, nella zona di campagna dove lui viveva, senza che vi sia stata nessun tipo di rivendicazione, nessun tipo di segnale che qualcuno, magari diciamo appartenente o riconducibile all'area politica della destra radicale, abbia desiderato questa morte. Eppure, e questo diciamo è l'elemento che volevo mettere inizialmente, giusto per inquadrare un po' l'attualità forse anche dell'argomento, la cosa che ha stupito, che stupisce ancora oggi, Calore era stato un collaboratore di giustizia, ma in realtà, come molti collaboratori di giustizia, come molti pentiti diciamo delle organizzazioni del terrorismo di destra, le sue dichiarazioni, più che a portare alla cattura o all'individuazione di responsabili di altri reati, magari di reati di sangue, aveva chiarito alcuni meccanismi delle organizzazioni politiche, aveva chiarito alcuni meccanismi interni del neofascismo violento degli anni 70, della seconda metà diciamo degli anni 60 e poi degli anni 70, e al punto che il giudice Guido Salvini, che è stato uno dei giudici che meglio ha indagato su questi temi, diciamo anche l'indagine più accurata sulla strage di Piazza Fontana, quella del 12 dicembre del 1969, ha definito Calore come il collaboratore di giustizia più importante della storia della destra radicale. Ebbene, e finisco diciamo con questa brevissima premessa, che cosa stupisce della morte di Calore, al di là delle modalità, al di là del fatto che appunto sia stato apparentemente così facile uccidere un uomo che aveva così contribuito comunque appunto a detta di Salvini a svelare non tanto i responsabili di questo quel crimine quanto la dimensione politica, organizzativa, le strutture diciamo della destra radicale, e stupisce che ci sono dei siti neofascisti su cui al momento della morte di Calore, e forse ancora oggi, non saprei, comparivano in realtà una sorta di augurio, diciamo come quelli che oggi si scrivono dicendosi felici della morte di Bin Laden, tanto per dare il segno della cosa, dicendo come dire, è morto il pentito, il delatore Calore, è morto un infame, eccetera eccetera. Stupisce perché in realtà i temi e le cose rivelate da Sergio Calore riguardavano avvenimenti accaduti 20 o 30 anni fa, cioè come a dire che la memoria lunga del neofascismo, della destra radicale rispetto a questa figura che peraltro non aveva in realtà addossato ad altri responsabilità, aveva solo chiarito i meccanismi organizzativi di una parte del terrorismo nero, rimane nella memoria dell'estrema destra come quella della figura di un pentito, come quella della figura di un infame. Diciamo che questo elemento a tale distanza dai fatti in qualche modo credo che risulti comunque significativo, comunque ci indichi che chi ha avuto a che fare con Sergio Calore all'interno delle organizzazioni della destra radicale potrebbe nutrire dopo moltissimi anni ancora un atteggiamento di odio così radicato. Credo che, spero di non aver stravolto l'impostazione della trasmissione, ma credo che questa sia la cosa importante, perché stiamo parlando di una persona uccisa di recente, insomma, e quindi questi fatti evocati dal film di Angela Amico e la vicenda di Perturra, una vicenda ormai di 40 anni fa, tornano all'attualità con l'omicidio di quello che potrebbe essere stato un testimone molto importante di questa storia. Ecco, questo era giusto per l'attualità dell'argomento. Certo, no, a me poi fra l'altro aveva stupito, diciamo, all'epoca trovare abbastanza poca eco di questo fatto sui media italiani, insomma anche su tutto quello che è il dibattito in Italia, e vedere come invece nel Paese Basco questa morte insomma sia stata affrontata, vista con una certa rilevanza. Fra l'altro appunto questo documentario che è stato proiettato a inizio aprile è praticamente un instant film, ecco, se pensiamo che l'Agno e Todos los Demonios ha avuto una gestazione molto molto lenta e lunga, qui stiamo parlando di tempi molto più ristretti. E a proposito di quello che dicevi tu sulle dichiarazioni di Calore che in qualche modo avrebbero fatto luce su un certo tipo di ambiente ma non sulle persone, ecco, per quel che concerne l'attività o la presunta attività di militanti neofascisti nello Stato spagnolo e anche in altri luoghi fuori d'Italia, che cosa che elementi ha aggiunto Calore per la conoscenza di quegli anni? In realtà a quel che risulta, insomma, dalle carte processuali, Calore ha parlato di questa presenza senza scendere troppo nel dettaglio. Il punto è che in qualche modo questa stessa presenza è stata diciamo sempre negata dal punto di vista delle operazioni, per così dire, militari dell'organizzazione terroristica da parte dei neofascisti italiani, ed è stata invece sempre derubricata una sorta di collaborazione di tipo politico. Bisogna su questo sì forse fare un passo indietro. Siamo alla metà degli anni 70, ultima stagione del franchismo, sappiamo che tra il 77 e il 78, insomma, con la scomparsa di Franco, la Spagna tornerà, inizierà la cosiddetta transizione democratica. Eppure proprio nella seconda metà degli anni 70 la Spagna diventa luogo di approdo non soltanto dell'estrema destra europea, ma anche luogo di incontro e di contatto tra i gruppi e i personaggi di questo universo nero europeo e le strutture, spesso i servizi segreti, delle dittature latinoamericane, che erano diventate in qualche modo, dopo la fine del regime di Salazar in Portogallo nel 74 e il regime fascista, insomma, che era seguito quello di Salazar nel 74, e poi appunto quando sarà la fine della Spagna, diventeranno l'ultimo baluardo, regimi come quello del generale Videla o quello di Pinochet in Cile, della cosiddetta internazionale nera, cioè ciò che restava, diciamo, a livello istituzionale in alcuni paesi di protezioni esplicite, di contatti espliciti con il mondo neofascista. Sappiamo che nel nostro paese ovviamente i contatti c'erano stati, tutta la strategia dell'attenzione sta lì a indicarlo, ma non si era quasi mai trattato, insomma, di contatti o di rapporti esplicitati o comunque di rapporti che venivano rivendicati, insomma, in qualche modo si cercava che i rapporti con i fascisti fossero nascosti. La Spagna invece in questa fase è un luogo di incontro, è un luogo di incontro ad altri livelli, ci sono personalità importanti del mondo politico franchista, ci sono settori, diciamo, degli apparati di sicurezza che mettono in contatto, diciamo, coloro che si erano rifugiati nel paese, famosa la figura di Otto Skorzeny, l'uomo che liberò il Duce dal Gran Sasso, insomma, c'è importanti dirigenti, c'erano molti croati cattolici scappati dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, c'era un gruppo, diciamo, di esuli dei regimi dell'asse, quindi dell'Italia, della Germania in Europa, che erano scappati via dopo la Seconda Guerra Mondiale e che si erano rifugiati in Spagna protetti dal generale Franco. Un'altra parte avevano, attraverso la Rat Line, varcato l'oceano ed erano finiti ad esempio nell'Argentina di Perón. Quindi all'ombra di questo regime ormai alla fine, ma ancora non si annunciava veramente la fine, alcune città, Madrid piuttosto che Barcellona, diventano luogo di incontro e di costruzione di una rete con questi neofascisti europei e con gli inviati delle dittature latinoamericane. In questo contesto gli italiani che avevano già costruito rapporti con altri gruppi europei già alla fine degli anni 60, pensiamo alla collaborazione con l'OAS, i terroristi, diciamo, di matrice nazionalista, parafascista, che si battevano per mantenere l'Algeria francese, quindi contro l'indipendenza dell'Algeria, realizzando attentati anche nel suolo francese. Bene, gli italiani sono molto ambiti, diciamo, in questo contesto, perché si sa che appunto negli anni 60, alla fine degli anni 60, hanno già costruito una rete organizzata che ha messo a segno degli attentati. Nei primi anni 70 ci sono una serie di ulteriori stragi e poi ci sono una serie di omicidi politici che colpiscono appunto persone, militanti della sinistra, talvolta perfino vittime casuali di aggressioni sbagliate, insomma, e quindi il neofascismo italiano è conosciuto per esprimere, il fascismo violento, per esprimere dei personaggi che possono, per chi voglia, organizzare una rete in qualche modo clandestina o servizi di una rete clandestina per i propri scopi, sono reputati avere le qualità necessarie. Ed è all'ombra, diciamo, di questo contesto che emissari italiani dei due gruppi che in quel momento sono, diciamo, più forti, cioè Avanguardia Nazionale e Ordine Nuovo, si recheranno a più riprese in Spagna. E diciamo, questo incontro degli esuli, insomma, dei fascisti, talvolta esuli perché inseguiti da mandati di cattura per questo o quell'attentato, questo o quel processo, ma anche no, anche liberi cittadini che potevano viaggiare tranquillamente con i propri documenti, all'ombra di questa vicenda si progetterà anche la fusione tra questi due gruppi maggiori a metà degli anni 70, intorno al 75, a cui lavoravano nei due campi Stefano Delle Chiaie per Avanguardia Nazionale e Pierluigi Concutelli per Ordine Nuovo. Ecco, Sergio Calore sarà in quella stagione, diventerà rapidamente, lui che era cresciuto nell'MSI e poi aveva raggiunto Ordine Nuovo nella zona di Tivoli, insomma un bacino abbastanza prolifico di neofascisti in quella stagione, diventerà rapidamente il luogotenente di Pierluigi Concutelli e in qualche modo parteciperà a questo tipo di tentativo di fusione dei due gruppi e appunto a suo dire anche ad una serie di incontri nel territorio spagnolo. Aggiungo solo un elemento: nel 1975 l'omicidio a Roma di Bernardo Leighton, che era stato il ministro di Allende, rifugiato politico protetto dalle autorità italiane, sarà uno degli elementi che, secondo tutte le indagini internazionali, eccetera, cementerà in qualche modo questo legame con le centrali internazionali, insomma, dell'estrema destra, gli spagnoli e tramite gli spagnoli il regime dell'America Latina, il regime di Pinochet stesso, perché appunto realizzato da neofascisti italiani che colpivano però un obiettivo che gli era stato indicato e che gli era stato richiesto di colpire appunto dai loro alleati di questo circuito dell'estrema destra internazionale, in particolare quelli dell'America Latina. Senti, abbiamo detto che questa stagione, almeno per quanto riguarda lo Stato spagnolo, possiamo farla cominciare a metà degli anni 70, quando poi con l'agonia e la morte di Franco comincia quel periodo confuso che porterà alla transizione alla democrazia e quindi all'adozione della Costituzione spagnola sul finire degli anni 70 e all'adozione di un modello di monarchia parlamentare. Quando si può porre una conclusione per questo periodo per quanto riguarda la presenza almeno dei neofascisti italiani in questo contesto, se possiamo dare insomma dei riferimenti più o meno chiari? È difficile stabilire un calendario, diciamo, di questa vicenda. Diciamo che questi incontri, questi rapporti, più o meno, visto appunto la trasformazione poi della Spagna, l'evoluzione verso la democrazia, riguardano in realtà la seconda metà degli anni 70 e più o meno in termini concreti si concludono, diciamo, in quella stagione lì, cioè si esprime in quella fase lì, in rapporti molto stretti, ad esempio, oltre che con i servizi spagnoli, con l'organizzazione dei guerriglieri di Cristo Re, insomma, una fase intensa di viaggi, di scambi di armi, di scambi di informazioni, ma che dura appunto probabilmente 4-5 anni, forse anche qualcosa di meno. Ho capito. Senti, per tornare all'oggi, diciamo, parlando come storico, a tuo parere con la morte di Calore si chiude il sipario sulla possibilità di avere ulteriori elementi su quel momento storico? Dobbiamo insomma basarci su quello che abbiamo sotto mano, o potrebbe la ricerca, sempre così parlando in maniera molto, molto formale, fornirci altri dati su quella stagione, a tuo parere? Diciamo che io non ho ancora avuto modo di vedere l'intero documentario, l'intero film Nemico nel caso Calore, quindi questa seconda puntata. Diciamo che la prima di tutto di aver commesso un errore, di aver parlato dell'omicidio di Leighton invece dell'attentato, peraltro, è come stava venendo in mente, dovete scusare, ma diciamo la ricostruzione veloce di tante vicende, insomma, è un po' più complicata. Ma la questione è che in realtà su queste vicende la memoria italiana è assolutamente scarsa, nel senso che non ci sono ricostruzioni adeguate di quella fase dei rapporti tra il nostro neofascismo violento e le organizzazioni internazionali. Probabilmente non vi sono, perché una parte di questa memoria non riguarda soltanto, ma qui ci lanciamo sul piano delle supposizioni, la memoria interna alle organizzazioni terroriste, appunto, su cui la collaborazione di un personaggio come Calore, peraltro con Cutelli nella sua autobiografia che si chiama Io l'uomo nero, diciamo sostanzialmente dice, più che dire che allora sì, era un infame, ma era anche uno scemotto, insomma, quindi uno che aveva sempre partecipato a poche cose, quindi poco aveva da dire, riduce molto, diciamo, il ruolo. Il punto è che probabilmente in quella fase i terroristi di destra, i neofascisti erano legati a doppio filo con gli apparati di sicurezza, c'era una contiguità spesso sconcertante dal punto di vista, diciamo, del muoversi liberamente, della circolazione di armi, documenti falsi e quant'altro. Quindi c'è da dire che forse fare piena luce su quei rapporti significherebbe ancora una volta, come poi molti misteri italiani, scavare più profondamente negli archivi e verificare quanto quei rapporti non erano soltanto tra organizzazioni marginali, ma magari tra apparati di diversi paesi europei e all'ombra dei quali si svolgevano anche i rapporti con i neofascisti. Quindi è difficile dire se con la morte di Calore si è voluto in qualche modo, per capirci, chiudere la bocca a un testimone scomodo. Questa è chiaramente la tesi di molti baschi, di Angela Amigo in particolare, anche perché appunto mentre da noi di queste vicende non si è più parlato, per Turre è un nome ai più, diciamo, totalmente sconosciuto, credo anche quasi diciamo nel movimento di solidarietà al popolo di Euskadi, nel senso delle tante vicende, no, del paese, certo, basco, quella di Turre non mi sembra essere quella più nota ai più. Mentre invece appunto in Spagna e in Euskadi in particolare si è continuato a cercare di capire perché questo, perché oltre perché nella vicenda di Pertura, appunto, come probabilmente avrete spiegato, c'è l'accusa di una faida interna, certo, no, che questo personaggio fosse stato eliminato dagli stessi militanti dell'organizzazione ETA per un dissidio. C'è anche un altro elemento, che in qualche modo quello che accadeva durante il regime franchista, cioè alla fine della stagione del franchismo, si sarebbe drammaticamente riverberato nella prima fase del ritorno alla democrazia attraverso la costituzione di gruppi paraterroristici e parafascisti, ma di Stato, spesso con il contributo della stessa Guardia Civil, delle varie polizie locali spagnole, e che avrebbe in qualche modo proiettato sulla nuova democrazia, compresa quella guida socialista, il fantasma della guerra sporca, così come era stata condotta appunto durante il franchismo contro i baschi, ma non soltanto contro i baschi, contro tutti gli oppositori politici. Quindi in Spagna, diciamo, c'è ancora forse la necessità di chiarire ciò che accadde allora, perché ciò che accadde allora non finì così rapidamente, no? Ma si protrasse nella stagione della montante democrazia. In Italia questo capitolo appartiene un po' a quella storia remota delle stragi, del fascismo, della violenza politica, che sembra appartenere non a qualche decennio fa, ma a qualche, diciamo, in questa anno di anniversario del Risorgimento, sembra che stiamo parlando di Garibaldi, no? Talvolta. Il punto è che ci sono ancora molte zone oscure. Francamente, credo sia da questo punto difficile dire se Calore diciamo abbia pagato, appunto, perché doveva mantenere il silenzio su questo. Certo è che Calore è ancora molto odiato negli ambienti della destra radicale, e che probabilmente, ma questa è un'ulteriore così considerazione del tutto personale, è probabile che i segreti, oltre quello che riguarda la partecipazione eventuale degli italiani all'omicidio di Pertur, ne avesse davvero ancora tanti, se avesse voluto, da rivelare. Ho capito. Senti Guido, io concluderei facendoti un'ultima domanda, prendendo spunto appunto da quello che dicevi poco fa. La vicenda di Calore, di Ordine Nuovo, Avanguardia Nazionale, è una vicenda che riguarda, più o meno abbiamo detto, l'ultima parte degli anni 70. Citavi giustamente un'altra parte abbastanza oscura della storia recente dello Stato spagnolo, ovvero sia la cosiddetta guerra sporca nel Paese Basco, sia spagnolo che francese, portata avanti nel corso degli anni Ottanta, quindi durante il governo socialista González, per sintetizzare moltissimo per i nostri ascoltatori e ascoltatrici, diciamo una sorta di squadroni della morte che sono andati a colpire decine di militanti, a volte molto spesso anche gente che non c'entrava nulla, da una parte e dall'altra del confine fra Spagna e Francia nel Paese Basco. Molti dicono che di queste squadre, i GAL sono probabilmente la sigla più conosciuta, ma ci sono anche i guerriglieri di Cristo Re, che citavi tu, e tante altre sigle, facessero parte anche neofascisti italiani. C'è una vaga conferma di questo anche a livello magari di indagine giudiziaria fatta da qualche magistratura, se non spagnola, francese o italiana, oppure siamo al semplice livello di supposizioni e ipotesi? Ma diciamo che devo ammettere di non averne personalmente trovato traccia. Credo vi siano state, ma su questo diciamo ammetto assolutamente la possibilità di non ricordarlo io, insomma. Credo però diciamo due considerazioni brevi. La prima, che qualcosa del genere ha probabilmente intrecciato il circuito dell'ospitalità offerta ai latitanti italiani dopo la grande fuga dall'Italia che fa seguito alla strage del 2 agosto del 1980, nel senso che gli ambienti, soprattutto parigini e in altre zone francesi, che hanno a che fare con i latitanti del terrorismo neofascista italiano in quella stagione, sono spesso legati anche al circuito di lotta armata contro l'indipendentismo basco e pro servizi segreti. C'è in quella fase una stagione in cui soprattutto in Francia una parte di forze dell'ordine in cui agiscono militanti dell'estrema destra. C'è un piccolo partitino, un'organizzazione che si chiama FANE, Fronte d'Azione Nazionalista Europeo, che poi diventerà Partito Nazionalista Francese ed Europeo, in cui agiscono alcuni uomini in divisa che in qualche modo rivendicano anche la loro partecipazione ad azioni, siano quelle dei Gallo, siano altri, non è ben chiaro, comunque contro gli indipendentisti baschi in territorio francese e non solo. C'è un clima nel quale la destra radicale, quella soprattutto che ha a che fare con gli apparati di sicurezza in Francia, a un livello anche di base, senza coinvolgere necessariamente grandi circuiti di potere, si identifica in quella battaglia, e i latitanti italiani hanno comunque a che fare con quella parte della destra radicale francese. Quindi da questo punto di vista c'è un contatto che potremmo dire in qualche modo indiretto. Mi sembra non vi sia più, o non vi sia traccia più, di una partecipazione del tipo di quella che aveva invece caratterizzato gli anni 70, ma in realtà questo perché è cambiato il panorama della destra radicale. Le organizzazioni come Ordine Nuovo, che avevano fatto da manovalanza per quel tipo di operazioni politiche nel decennio precedente, lasciano il campo ad altre organizzazioni magari sempre pericolose, ma organizzate con criteri meno militari, meno da apparato di sicurezza, e quindi forse anche meno utilizzabili per scopi del genere. Penso a tutta la galassia che ruota intorno, in senso lato e largo, a terza posizione, poi ai nuclei armati rivoluzionari, eccetera. Certo, lo stesso calore appartiene, diciamo, e questo è interessante anche dal punto di vista del racconto, insomma, della vicenda non solo personale ma anche politica, appartiene a quella generazione che in qualche modo, partendo dai vecchi gruppi che partecipano a quel tipo di azioni, cioè Ordine Nuovo in particolare, arriva poi ad avere a che fare con altre organizzazioni come Costruiamo Nazione, il Movimento Nazionale Rivoluzionario, cioè gruppi che in quella primi anni 80 a Roma, fine anni 70, primi anni 80, muovono alcune azioni violente. Però ecco, non credo che vi sia un contatto esplicito e diretto da questo punto di vista, perché cambia appunto cambia assolutamente lo scenario interno al neofascismo, e questo probabilmente rende anche meno utilizzabili quei nuovi soldati politici rispetto a quelli di una generazione precedente, che invece erano chiaramente legati a un fronte occidentale, a un fronte che all'interno dei singoli paesi appunto metteva insieme destre radicali, apparati di sicurezza, insomma, quant'altro. Credo che il link sia probabilmente quello francese, e lì mi sembra di ricordare vi siano state dei contatti, ma di questo tipo, ecco. Va benissimo, Guido, ti ringraziamo, il nostro tempo è giunto al termine. Io, prima di salutarci, vorrei ricordare ancora questo documentario che si chiama Il caso Calore, assassinato di un testigo protegido. Magari avremo modo di vederlo prima o poi anche qui a Roma. Nel frattempo si può facilmente scaricare dal sito della TV Basca, che è eitb.com. Guido, grazie ancora come al solito per la tua leggendaria erudizione e insomma a risentirci a prestissimo. Grazie a voi, grazie a te, buona giornata. Allora, terminata la corrispondenza con Guido Caldiron, che ringraziamo ancora, noi andiamo a terminare la puntata di Radio Sky di oggi. Siamo presi una decina di minuti in più, ma insomma, visti i temi, era anche dopo un minimo allargamento. Radio Sky vi dà appuntamento al prossimo lunedì 9 di maggio, sempre intorno alle 10:15. Sul sito www.ondarossa.info ci potrete ascoltare in streaming e ovviamente scaricare la puntata odierna della trasmissione. Dunque vi lasciamo con la sigla finale di Radio Euskadi e poi a seguire gli altri spazi mattutini.